L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Anche noi oggi parleremo di liberalizzazioni del famoso o famigerato, secondo un diverso punto di vista, Cresci Italia, con il quale il governo Monti intende rilanciare lo sviluppo e la crescita economica del paese. Se l'iniziativa del governo in questo settore è piaciuta a molti, ad esempio Coldiretti e CIA, non tutti gli agricoltori però sono d'accordo. In particolare, l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica si è fatta promotrice di un appello di protesta, poi firmato da altre associazioni e cooperative della categoria, che contesta l'alienazione di terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali. Andrea Segre, preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Bologna, torna a essere nostro gradito ospite. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Presidente, Presidente Monti, andiamo avanti. Che differenza c'è tra terreni agricoli e a vocazione agricola, tanto per cominciare? Beh, qui il decreto liberalizzazioni, questo pacchetto, dove c'è un pacchetto agroalimentare, parla di dismissione di terreni demaniali agricoli già a uso agricolo o poi a vocazione agricola che possono essere coltivati, perché il tema di fondo qual è? Quello di riportare del suolo ad uso agricola, si chiama superficie agricola da utilizzare, perché ne abbiamo perso molto, in parte grazie, si fa per dire, al cemento, perché fra i due censimenti 2010 e 2000 abbiamo perso qualcosa come 300.000 ettari in termini di superficie agricola utilizzata e fra l'altro questi 300.000 ettari sono quelli che in qualche modo si vorrebbero mettere sul mercato appunto con questo decreto, e quindi sarebbe, diciamo, un pareggio in qualche modo. Il problema è poi come darli. Poi vediamo come. Volevo chiederle che cosa c'è su questi terreni adesso? Beh, sono poi terreni che hanno già delle culture in atto e che sono quelli che possono essere anche messi a sperimentazione, essenzialmente culture vegetali, e quindi possono essere coltivati o sono coltivabili, perché poi il terreno si rinnova, è una risorsa non scarsa, limitata, e poi per metterlo a cultura ci vogliono degli investimenti, evidentemente si chiamano investimenti fondiari, bonifiche, adesso in questi casi non sarà necessario probabilmente, oppure investimenti agrari, capitale agrario, quindi la meccanica. C'è bisogno evidentemente non soltanto di avere la terra, ma anche poi di metterci sopra qualcosa, ed è un altro punto che evidentemente è conseguente a questo decreto. Allora vediamo un po' nel dettaglio, un pochino più nel dettaglio, cosa dice questo decreto. Tra l'altro dice che la vendita prevista sarà annuale, sarà attraverso asta pubblica se il valore è superiore a 100.000 euro, a trattativa privata se al di sotto, che per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani, che per i terreni interni ad aree protette l'Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori, che regioni, province e comuni possono vendere i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola. Il secondo ospite che a questo punto vi presentiamo non poteva che essere il presidente nazionale di AIAB, Alessandro Triantafillidis. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Che cos'è che non vi convince? Che cosa vi preoccupa? Allora, ci preoccupa questo articolo 66, perché il resto delle, diciamo, iniziative in campo agricolo non sono negative. Ci preoccupa il fatto di alienare terreni agricoli che sono di proprietà dello Stato, comunque di proprietà di enti territoriali, quindi pubblici, perché pensiamo che questa sia una scelta assolutamente miope. Semplicemente per far cassa e diminuire il debito ci si aliena di terreni che hanno un'importanza fondamentale. È come se uno Stato non si può comportare come un privato cittadino che magari per debiti di gioco vende i suoi terreni per pareggiare il debito. Ci vuole una scelta che abbia una lungimiranza molto maggiore, e bisogna fare una scelta che vada verso creare nuova occupazione. La vendita non crea nuova occupazione. In Italia ormai chi ha potere d'acquisto di terreni non sono certo i piccoli coltivatori diretti, non sono giovani che vogliono iniziare l'attività agricola, ma sono grandi aziende, corporation, e purtroppo, bisogna dirlo, c'è anche il grande rischio della criminalità organizzata. E proprio per parlare di questo rischio vi presentiamo il terzo nostro ospite di questo pomeriggio, che è Angelo Iannone dell'Osservatorio Criminalità di Eurispes, qui in studio con noi, abita qui vicino, quindi è venuto a trovarci direttamente. Buon pomeriggio e grazie, sì, infatti ogni tanto mi fanno un fischio e mi dicono di raggiungere gli studi. Vabbè, lo faremo più spesso, visto che è così vicino e così disponibile. Grazie. Che ne pensa lei di questo rischio? C'è effettivamente? Ma è che la criminalità organizzata abbia, quella almeno di matrice tradizionale, in particolar modo le più tradizionali in assoluto, ci riferiamo a Cosa Nostra e abbiamo visto anche recentemente, ma noi l'avevamo già pronunciato, sul rapporto sulle agromafie di Eurispes, i rapporti tra ancora una residua fetta di dei corleonesi, lo stesso fratello di Totorina, Gaetano, e i casalesi. E quindi questa vocazione, diciamo così, per la filiera legata ai prodotti agricoli è storica, è sempre stata una vocazione diciamo solida da parte di queste organizzazioni mafiose. Se ci mi ricorda si chiede, un po' la roba dei mafiosi. Sì, ma possiamo anche far riferimento, tanto per intenderci, al primo investimento mafioso di Totorina nel 1975 con la costituzione della RISA S.p.A. Appunto, giusto per ricordare il suo acronimo, Rina Salvatore, affidata a dei professionisti insospettabili che aveva come scopo investire in terreni agricoli. E da lì è cominciata una storia che non è mai finita. Se poi mi si chiede se ci siano segnali concreti di capitali da investirsi in dismissioni pubbliche, ecco, non ci sono, che io sappia, indagini che in questo momento lo dimostrino, però in termini di rischio ovviamente questo è possibile ed è doppiamente possibile, perché da una parte abbiamo le organizzazioni nostrane con delle difficoltà sicuramente superiori legate alla circolazione, alle limitazioni sulla circolazione del contante, quindi ci sono sicuramente dei controlli molto più stringenti sulla possibilità di reinvestire proprio in Italia proventi di attività illegali, ma non dimentichiamoci che dall'altra abbiamo gli interessi di grosse organizzazioni apparentemente sicuramente legali e pulite, provenienti da altri paesi, che stanno facendo shopping di aziende e shopping di asset, diciamo, nei paesi europei, tutti quanti più o meno in bilico in una situazione di crisi. Quindi anche questo, di questo ci dobbiamo preoccupare. Preside Segre, richiamo in causa lei su questo punto. Questo rischio lo sente vicino, poi a maggior ragione dopo le parole che abbiamo sentito da Angelo Iannone? Ma direi di sì, e bisogna fare di tutto per evitarlo. Intanto c'è un miglioramento in questo decreto rispetto alla versione precedente, che era nella legge 183, perché si passa da 5 a 20 anni come durata del vincolo di destinazione d'uso agricolo, e quindi questo, diciamo, intanto lega più alla terra la produzione agricola ed evita eventuali speculazioni, perché 5 anni in realtà sono molto brevi. E poi io credo che bisogna controllare, cioè l'idea di non vendere ma fare un affitto magari di lungo periodo non è sbagliata di fondo, perché questo lega di più evidentemente all'attività imprenditoriale, tanto più che non ci sono grandi capitali da investire in agricoltura per chi già fa agricoltura, non per chi sta in altri settori e specula oppure fa attività illegali, e allora ecco che lì in un affitto di lungo periodo effettivamente siamo più, diciamo, sicuri che anche gli investimenti che si devono necessariamente fare per migliorare il fondo agricolo possono avere una redditività, anche perché i giovani, che sarebbero poi l'obiettivo, quelli che dovrebbero tornare in campagna e dovrebbero lavorare in agricoltura, quindi una forma di occupazione, devono essere incentivati, ma grandi capitali evidentemente da investire non ne hanno, vorrei dire, per definizione. Quindi trovare una forma che faciliti un affitto di lungo periodo. Del resto, guardando sempre i dati del censimento, l'affitto è aumentato, è passato come titolo di proprietà, come percentuale del titolo di possesso fra proprietà, affitto e uso gratuito, comodato, è passato dal 20 al 32%, quindi comunque uno strumento che sembrava un tempo che vincolasse la mobilità dei fondi, in realtà poi non è così, quindi bisogna pensarci in effetti. L'affitto può essere anche uno strumento per tenere lontane le mafie? Sicuramente sì, tra l'altro io aggiungerei che non soltanto l'affitto, bisognerebbe secondo me stimolare meglio la creatività come dire imprenditoriale dei giovani, per esempio introducendo dei meccanismi di concorso tra virgolette su i progetti industriali legati all'agricoltura migliori per creare delle graduatorie nell'affidamento di questi terreni. Trianta Filidis, richiamo lei perché all'inizio proprio della trasmissione Preside Segre ci diceva e ci ricordava quello che poi lei ha affermato in varie interviste ultimamente, cioè che negli ultimi 10 anni nel nostro paese c'è stata una perdita della superficie agricola utilizzata, c'è stata una riduzione del numero di aziende di circa un terzo. Insomma, tutto questo però non fa ben sperare, diciamo che vendito affitto non pare che ci sia tutto questo interesse da parte di giovani, ma anche meno giovani, a lavorare nell'agricoltura, entrare in questo mondo? Sì, allora per risolvere questo problema ovviamente non basta il decreto liberalizzazioni, bisogna incidere su regole nuove che vadano dalle regole, semplificare le regole igienico-sanitarie per le piccole aziende, perché quello che sta sparendo in Italia sono le piccole aziende, le aziende contadine, piccole e medie per la verità. Io vengo dalla Liguria dove il calo è stato addirittura del 42% di aziende agricole, 50% della zootecnia. Questo significa che praticamente non c'è più presidio del territorio e non c'è niente come l'agricoltura per gestire il territorio e quindi evitarsi tutte le problematiche che nella regione dove vivo sono insomma accadute, sono di una gravità incredibile. Però è anche vero che ci sono tanti giovani che escono da università, che non hanno fatto necessariamente neanche agraria, che sono attirati dal mondo agricolo perché comunque gli altri settori non offrono un granché, e vorrebbero, ma non possono, perché c'è una difficoltà di accesso al credito e di accesso alla terra che ha costi eccessivi. Di conseguenza la locazione diventa una via prioritaria per creare occupazione anche con questi famosi 300.000 ettari, diventa veramente importante. Inoltre ci sono anche situazioni molto interessanti come casi di agricoltura sociale che sono in netta espansione, che potrebbero ampliare il loro lavoro grazie alla locazione dei terreni pubblici. E lei dice appunto, così facendo insomma si potrebbe ottenere qualcosa passando attraverso soprattutto la via dell'affitto. Potrebbe essere interessante anche ragionare su un discorso di agroenergie in questo contesto? Questo no, va non l'avevo molto, convinta. Molto con le pinze. No. Perché? Che cos'è che la rende perplessa? No, il concetto di agroenergie in sé... Ci sono tantissimi studi che dimostrano quanto alla fine sia più l'energia che si consuma tra fertilizzanti, pesticidi, trasporti eccetera, piuttosto che di quella che si ottiene, quindi bisogna andare molto cauti. Da biomasse questo può essere una situazione invece diversa e può essere sicuramente interessante. Quello che manca comunque all'Italia adesso è comunque produrre cibo, per noi siamo il principale produttore, tra i principali mondiali di cibi, di prodotti alimentari di alto valore aggiunto, ma stiamo importando quasi tutto. Purtroppo sta succedendo anche nell'agricoltura biologica, quindi bisogna tornare a coltivare. Prima di proseguire su questo tema, Iannone, voglio chiedere, le agroenergie sono un settore di interesse per le mafie qui? Ma dei segnali ci dicono di sì, ma più che le agroenergie intese come proprio bioenergie, è più che altro lo sfruttamento di terreni per energie alternative, quindi terreni che vengono tristemente trasformati in sorte di cimiteri di pannelli solari, no? Ecco, lì quindi sì, accaparrarsi ci sono... terreno per nascondere, insomma, stipare rifiuti di qualche tipo? Su questo tema, ripeto, ci sono soltanto affiorati degli elementi, dei dati da alcune indagini, ma non c'è mai stata un'indagine che abbia manifestamente messo in luce proprio la tendenza ad acquisire terreni per poi trasformarli, legarli al ciclo dei rifiuti, del traffico illegale di rifiuti. dicevamo poco fa con i nostri ospiti, anche della taglia delle aziende agricole italiane, una taglia che a quanto pare sta aumentando. È questo veramente un male, Preside Segre? No, ma noi comunque abbiamo una taglia relativamente piccola, anche se le piccolissime aziende, che pure hanno un senso, soprattutto di questi tempi, ma siamo passati, sempre per fare questo raffronto importante di 10 anni, 2000-2010, da 5,5 a 7,9 ettari di media, ma con grande differenza fra nord, sud e centro, è una taglia sicuramente più piccola rispetto ad altri paesi europei. Noi non potremmo avere una agricoltura competitiva con altri paesi, diciamo, dove la competizione, il costo della manodopera è molto molto più basso, però ecco, un'agricoltura di qualità che sfrutti per davvero la multifunzionalità. Ho sentito parlare prima dell'agricoltura sociale, questa è una nuova frontiera assoluta, non abbiamo ancora considerata bene in Italia, in Europa sì, è un'agricoltura che mette assieme l'agronomo con il medico e che lavora con i diversamente abili, creando, come dire, dando un senso anche all'attività agricola, che è molto importante per la salute del cittadino oltre che per l'ambiente. Quindi questo è il valore aggiunto che noi dobbiamo dare. Quando però io vedo in effetti che oltre al cemento ci sono a suolo i pannelli fotovoltaici, francamente sono un po' perplesso, ce li stiamo pagando tutti con gli incentivi e peraltro facciamo anche lavorare i produttori di pannelli fotovoltaici, non italiani, almeno quelli, ma quelli tedeschi e quelli cinesi. Cioè qui manca un po', credo, una politica nazionale che dia il giusto peso all'agricoltura. Senta, Triantafili disse proprio a proposito di taglia, voglio sapere perché per voi grosso non è poi così bello, che cos'è che rende perplessi dal vostro punto di vista? No, non è che siamo così drastici che il grosso non è bello, poi grosso a livello italiano vuol dire piccolo a livello inglese comunque. Vedevo che lei lo sottolineava in alcune dichiarazioni, no? Sì, quelle, no, appunto, nel senso... diminuiscono il numero delle aziende a favore di quelle un po' più... di taglia un po' più grossa. Allora mi domandavo, è un male secondo lei? No, non è un male, ma che cosa indica? Allora, ad esempio le aziende agricole biologiche in media hanno 12 ettari, quindi sono più grandi di quelle medie convenzionali, sia perché comunque è un tipo di agricoltura più estensiva, quindi c'è bisogno di più terreno, quindi non sono 3 o 10 ettari in più o in meno che fanno la grande differenza. Il problema è che manca l'agricoltura familiare, che è quella che poi tiene... che è quella che sta sparendo dall'Italia, che è l'agricoltura che poi mantiene anche il territorio, che non fa solo produzione, perché se noi ragioniamo sempre in termini di competitività, beh, lo sappiamo già che l'agricoltura italiana non sarà mai competitiva con nessuna parte del globo, perché non abbiamo le estensioni, abbiamo un territorio molto difficile, a parte la pianura padana e poche altre pianure, e quindi quello su cui dobbiamo lavorare, come si diceva già, è la multifunzionalità, la qualità dei prodotti, ma soprattutto considerare l'agricoltura non solo come un settore primario, ma è protezione civile oramai. È protezione. Lei ha sottolineato sì, un punto importante, civile. Senz'altro un punto importante, il nostro territorio è stato messo a dura prova negli ultimi anni, sicuramente anche perché non ha una manutenzione adeguata, e questa manutenzione potrebbe passare anche attraverso l'agricoltura, senz'altro. Vorrei anche così portare alla vostra attenzione, sentire il vostro parere su questo punto. Mi è stato segnalato nella preparazione di questa puntata come in altri paesi europei, ad esempio la Danimarca, ad esempio la Francia, lo Stato si stia occupando di riacquistare terreni, non di venderli, perché pensa anche alla produzione del cibo per il proprio paese, perché comunque in tempi di land grabbing, dove si va a comprare terreno in Africa per coltivarlo, ecco, allora svendere quello che abbiamo in casa sembra veramente assurdo. Comincio da lei, Preside, una battuta veloce un po' per tutti. È assolutamente vero e fanno bene a farlo, del resto ci sta pensando la Cina, il land grabbing, a comprare e a prendere terreni in tutto il mondo, perché il tema è l'alimentazione nel futuro, 7 miliardi oggi, 9 fra qualche anno, tutti dovremmo mangiare bene, è chiaro che il tema è quello e quindi anche noi dovremmo porcelo, credo. A lei, Triantafilidis. Sì, quello che dicevo prima, un governo si deve porre sempre delle scelte lungimiranti, quindi non miopi, non di brevissimo periodo, questa è una scelta di brevissimo periodo e anche pericolosa. Di conseguenza, ovviamente, plaudo alle scelte danesi e francesi, sperando che in Italia... Iannone vuole aggiungere qualcosa prima che si prosegua nella trasmissione. Ma io volevo aggiungere semplicemente, ritornando al punto di partenza, che se andasse avanti così com'è questo decreto, ma ritengo che gli emendamenti sulla legge di conversione apporteranno i giusti rimedi, rischieremo di trovarci di fronte ad un paradosso. Il paradosso è uno Stato che da un lato confisca i beni delle mafie, quindi i terreni delle mafie, affidandoli ai giovani. Tra l'altro lo scorso anno è stato siglato anche un accordo con l'ordine dei commercialisti, e dall'altra invece potrebbe far ritornare a organizzazioni criminali gli stessi terreni. Una sorta di scambio anomalo. Sempre in tema di investimenti nell'agricoltura, questa settimana Mr. Kilowatt ci porta nel mondo delle agroenergie. L'Europa ha spesso incentivato gli agricoltori per non coltivare i campi, una pratica nota come set aside, nata dall'impossibilità di una parte dell'industria agricola locale di reggere il confronto con la concorrenza internazionale. Una proposta per andare oltre questa logica, francamente molto discutibile, è stata formulata nel corso della prima giornata nazionale del biometano, da cui è uscita un'indicazione di grande interesse. Secondo gli organizzatori, infatti, i terreni agricoli abbandonati negli ultimi anni, come quelli un tempo destinati alla produzione delle barbabietole da zucchero, potrebbero essere recuperati all'utilizzo grazie a coltivazioni energetiche destinate alla produzione di biometano. Parliamo soprattutto di cereali, per la cui coltivazione le aziende agricole italiane sono già ben attrezzate, ma anche di colture alternative, come per esempio il miscanto. I circa 300-400 mila ettari caduti in disuso negli ultimi anni, se recuperati a questo fine, potrebbero garantire, secondo il Consorzio Nazionale Biogas, circa il 10% del fabbisogno italiano di metano, oltre a dare un impulso all'economia agricola dell'ordine del 4-5%. Una proposta quindi concreta, anche se, diciamolo, non di facilissima attuazione, per rilanciare però l'agricoltura nostrana, riprendere la cura di territori che lasciati a se stessi vanno incontro a fenomeni di degrado, e anche un modo per migliorare la sicurezza energetica del paese, che proprio in questi giorni ha vacillato davanti alle ondate di freddo provenienti dalla Russia, a cui non hanno fatto seguito corrispondenti ondate, diciamo così, nella fornitura di metano. Chiudiamo questo capitolo ringraziando i nostri ospiti: Andrea Segre, il preside della Facoltà di Agraria di Bologna, il presidente nazionale di AIAB, Alessandro Triantafillidis, e Angelo Iannone dell'Osservatorio Criminalità di Eurispes. Adesso è il momento dell'altra nostra rubrica, articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione, a cura di Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati. Oggi abbiamo in collegamento con noi Domenico Finiguerra, che è il sindaco di un piccolo comune della provincia di Milano, Cassinetta di Lugagnano. Ecco, è un luogo particolarmente bello, intatto. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, lascio a lei, diciamo così, la parola, perché vorrei che lei ci descrivesse che cos'è Cassinetta di Lugagnano. Ma Cassinetta di Lugagnano è un comune della provincia di Milano nel Parco del Ticino. Siamo in una delle 6 riserve della biosfera tutelata dall'UNESCO. È un comune di 1800 abitanti che si adagia sul Naviglio Grande, che solca appunto la terra di Lombardia. So che il Naviglio nel Settecento, nei secoli passati, era un luogo, una sorta di riviera per le grandi famiglie nobili. Certo, infatti ci sono delle ville del Settecento appunto che erano il luogo di villeggiatura, erano residenze di delizia, così si chiama la linea delle delizie, quella che abbiamo recuperato negli ultimi anni, che collega Cassinetta di Lugagnano a Castelletto di Cugiano. Si può navigare su Naviglio Grande e godere di un bel paesaggio. Ma veniamo un momento alla gestione di questo comune. Lei si è, come ci ha descritto, si è impegnato a difendere sostanzialmente un luogo particolarmente pregevole dal punto di vista ambientale, e per questo lei ha ricevuto anche il premio Personaggio Ambiente Italia 2011. Ecco, che cosa fa il sindaco di Cassinetta di Lugagnano per tenere questo piccolo paradiso intatto? Noi abbiamo fatto quello che prescrive proprio l'articolo 9 della nostra Costituzione, ovvero la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Quindi l'unico modo che è possibile seguire per poter essere veramente allineati con quanto prescritto dalla Costituzione è quello di smetterla di costruire. E quindi noi abbiamo adottato nel 2007 un piano di governo del territorio che sostanzialmente traccia una linea rossa attorno all'edificato di Cassinetta di Lugagnano e dice stop al consumo di territorio, di suolo agricolo. E questo è un messaggio più che altro interpretato in maniera rivoluzionaria dal nostro paese, ma che in realtà è molto moderato e di buon senso, che potrebbe, come è successo anche da noi, dare anche una mano all'edilizia, paradossalmente. Certo. Abbiamo avuto in questi anni diversi cantieri che hanno appunto cercato di recuperare dalle case storiche, da ville del Settecento a immobili normali che appunto erano non utilizzati e che potevano dare comunque alloggi. Quindi basta costruire, piuttosto ristrutturiamo le bellissime ville oppure i rustici che naturalmente circondano queste ville o le case che già sono presenti, costruite. Ecco, qualche suo collega probabilmente l'ascolterebbe un po' perplesso, perché lei rinuncia così a molti degli oneri di urbanizzazione, uno degli incentivi economici più allettanti per i comuni. Ecco, però so che lei a Cassinetta di Lugagnano ha avuto un'idea per comunque arricchire le casse comunali, che hanno bisogno naturalmente di essere arricchite, utilizzando proprio questa politica del stop al consumo del territorio, però mettendo a frutto alcuni degli edifici e in particolare credo uno ristrutturato. Ecco, qual è l'idea che lei ha messo in campo? L'idea è quella di fare i matrimoni anche a mezzanotte. Abbiamo promosso questa nostra iniziativa facendo in qualche modo di necessità virtù, dovendo fare a meno degli oneri di urbanizzazione che arrivano nelle casse del comune. Abbiamo cercato quotidianamente delle soluzioni alternative, perché purtroppo non abbiamo dei canali di finanziamento che vanno a compensare i comuni che fanno una scelta di tutela del territorio e del paesaggio, quindi ci siamo dovuti appunto inventare qualche cosa. Una di queste sono i nostri matrimoni, in base al quale ci si può sposare a Cassinetta di Lugagnano da lunedì alla domenica, sì, dalle 9 a mezzanotte, in dimora del Settecento. Facciamo i matrimoni alla carta sostanzialmente, leggiamo, sì, poesie, anche facciamo quello che gli sposi ci chiedono, però si paga. E noi quest'anno nel 2011, nel 2010, i conti del 2011 ancora non li abbiamo fatti, ma saranno ancora migliori, abbiamo incassato 30.000 euro. Per un comune delle nostre dimensioni sono cifre importanti. Oltre a queste iniziative, poi noi ci avvaliamo tutti i giorni di quelle che sono le esperienze migliori che ci sono in Italia, fatte soprattutto dai piccoli comuni. Facciamo parte di un'associazione, si chiama Associazione dei Comuni Virtuosi, in base al quale cerchiamo di attingere, di copiare quello che di buono viene fatto nei comuni d'Italia, spesso lontano dai riflettori, però ci sono tantissime iniziative che vanno dalle energie rinnovabili alla raccolta differenziata, all'utilizzo anche di tecnologie, ma e poi anche alla reintroduzione di maggiore sobrietà e austerità. Abbiamo tagliato tutte le spese di consulenza, le spese di rappresentanza. Noi ci muoviamo preferibilmente in bicicletta e l'unica auto di rappresentanza è una vecchia Panda verde. Ecco, abbiamo fatto di necessità virtù e credo che ci abbiamo guadagnato anche in termini di miglior modo di fare politica. Non c'è dubbio, anzi io invito tutti gli ascoltatori, adesso magari no perché fa freddo, ma tra poco, di fare una bellissima gita lungo le alzaie dei Navigli che attraversano Cassinetta di Lugagnano per andare a vedere e toccare con mano che cosa significa appunto amministrare con questa saggezza sostanzialmente un comune. Poi chi volesse convolare a nozze, naturalmente vada a informarsi sui tarifari, che sono tutti quanti piuttosto abbordabili e offrono naturalmente la possibilità di sposarsi per i mattinieri la mattina presto e per i nottamboli a notte fonda. Grazie sindaco Finiguerra per la Grazie sua testimonianza, le auguro naturalmente di continuare con successo queste sue iniziative e saluto cordialmente tutti gli ascoltatori. E grazie a tutti gli ascoltatori anche da me, Laura Bettini. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, l'altro pianeta @radio24.it.